America 24 di Mario Platero. Our market reporter is beginning with Scott Wapner at the New York Stock Exchange for us. And Scott, you know, the market held pretty steady, then it took another big dip to the downside, not triple digits certainly. Buongiorno, giornata drammatica ieri a Wall Street. Prima una caduta verticale dell'indice, poi un recupero. Contraddizioni continue, perché in una giornata come quella di ieri, dove l'attenzione era soprattutto sulla crisi greca, dove più o meno si sapeva tutto e l'indice perdeva solo il 2%, c'era anche una notizia positiva che veniva dal mercato. Blackstone Group, Private Equity Group, era pronto ad acquistare un gruppo importante, Fidelity National, per 10 miliardi di dollari. Dunque, a fronte di questa situazione, crisi da una parte e possibilità di acquisto dall'altra, improvvisamente la tempesta. We've now broken Dow 10,000, as you can, we're down nearly 900. Was 400 points ago, I was 500 points ago when I said. Devo dire che raramente si vede una correzione, una caduta verticale così rapida. Nel momento in cui la signorina che avete ascoltato prima parlava, in effetti l'atmosfera era abbastanza tranquilla. Abbiamo avuto una giornata che ha avuto un Dow Jones al ribasso grosso modo del 2%, 2,20, 2,25, ma sempre attorno a quel livello. Poi all'improvviso, intorno alle 2.40, comincia così a muoversi un pochettino il mercato. Giunge la notizia che il titolo da Procter & Gamble è caduto da $60 a $39.70, quasi il 40%. Improvvisamente il mercato si avvita nel giro di 10 minuti intorno alle 3, con una rapidità che devo dirvi non ho mai visto qui a Wall Street, anche nei momenti più difficili. Le percentuali di caduta dell'indice passano dal 2% al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, in questa successione, una successione da mitraglia, fino ad arrivare all'8 e addirittura al 9%. 1000 punti nel giro di pochi minuti. L'indice Dow Jones sfonda, come avete sentito prima, quota 10.000, va a quota 9.999, c'è improvvisamente il 9 che appare, che sembrava ormai lasciato all'indietro quando ancora eravamo nella situazione di incertezza per la crisi finanziaria, e dunque il panico sul mercato. Panico dunque, anche se non c'era la notizia, qualcosa doveva essere successo. L'atmosfera di paura per il contagio della crisi greca poi ha fatto il resto. Improvvisamente trasmissioni televisive interrotte, dirette dalla borsa, cronisti urlanti, e dal New York Stock Exchange in queste dirette televisive abbiamo visto i volti inceneriti, letteralmente inceneriti, paralizzati dei traders, i loro corpi scomposti, sgraziati in questi poi grotteschi grembiulini colorati, perché ognuno di loro ha un colore a seconda del titolo che rappresenta. Erano così paralizzati, e dunque in questa situazione colpo di scena di nuovo improvviso. All of a sudden here we started hearing screaming buy buy buy orders. All'improvviso partono le urla compra compra compra, si ritorna a comprare. In altri 10 minuti l'indice recupera i 600 punti che aveva perso in partenza. Ricordiamo, perdeva circa grosso modo 300 punti quando è cominciata la corsa al ribasso. Improvvisamente ne ha persi altri 700, è arrivata una perdita complessiva di 1000, ne ha recuperati 500. Poi c'è stato un periodo di relativa calma, alla fine l'indice Dow Jones ha chiuso ieri a quota 10.520,32, ha perso pur sempre il 3,27%, una perdita di 347 punti, dunque una perdita piuttosto forte, però diciamo una perdita in linea con la giornata che registrava appunto, come vi ho detto prima, circa il 2% di ribassi, e in linea anche con gli andamenti in Europa. Che cosa è successo? È che le macchine si sono rotte, c'è stato un errore, è quello che dice il commentatore televisivo. Ebbene, in effetti c'è stato un errore. Devo dire che in quei 20 minuti in cui abbiamo visto il ribasso improvviso e poi il recupero, quasi non c'era tempo di pensare, si stava soltanto cercando di capire che cosa potesse aver indotto questo ribasso. In effetti, si è poi saputo poco dopo, c'è stato un errore tecnico. Un trader ha sbagliato nel dare l'input di un certo ordine di vendita molto tecnico, un ordine di vendita per un prodotto chiamato E-mini, un contratto future che è trattato al Chicago Board of Trade, che consente di giocare su titoli azionari. Bene, l'ordine di vendita doveva essere da 16 milioni di dollari, doveva riguardare un pacchetto che includeva anche Procter & Gamble, ma anche la 3M, e invece è stato iscritto per 16 miliardi di dollari. Invece di M per milioni, il trader ha inserito B per billion. Billion vuol dire miliardi. La conseguenza, come vi dicevo, è stata immediata. Proprio sul titolo Procter & Gamble la caduta è stata del 45%. Vi ricordo, la Procter & Gamble è un titolo tranquillissimo perché vende detersivi, dentifrici, fiocchi d'avena, biscotti. Insomma, l'americano medio, anche in crisi, il prodotto Procter & Gamble lo compra sempre. Non c'era nessuna notizia che riguardasse un disastro di qualche genere di Procter. Ma, come abbiamo poi saputo, questo errore. Ebbene, questo errore ha comportato una perdita di 170 punti sull'indice Dow Jones. Il resto è venuto dal panico automatico, il panico per la crisi greca, il panico perché un governatore aveva detto che forse ci sarebbe stato il pericolo di un contagio persino per gli Stati Uniti, oltre che per la Spagna. C'erano le notizie di dichiarazioni poco sicure del governatore della BCE, Trichet. L'oro era andato alle stelle, l'euro è sceso addirittura a 1,25. Insomma, improvvisamente c'è stato un perfect storm, una tempesta assoluta. L'indice è crollato per questo insieme di eventi che sono partiti da un errore, da un errore umano. Adesso lo sappiamo, ma il rischio che questo capiti ovviamente non sparisce con l'operazione di ieri. Beh, ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che continua, come abbiamo visto dalla giornata di ieri, a vivere tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli questi sviluppi su america24.com, il nuovo sito che vi porta sulla sponda americana. Ma eccoci alla canzone del giorno. Scarlett Johansson pensa al terzo album. L'attrice si è lanciata nel mondo della musica già 2 anni fa con 2 album di cover, Anywhere I Lay My Head, in cui canta pezzi di Tom Waits, e Break Up, in cui duetta con Peter Yorn. Ebbene, adesso Scarlett dice di essere pronta a cantare un pezzo originale, nell'attesa del nuovo album, e in una giornata come questa, direi turbolenta e di cadute in borsa, non possiamo che ascoltare Falling Down, caschiamo, dall'album di debutto di Scarlett. She's not gonna choose you for standing so tall. Swig of that poison and like it. Don't ask for silverware, don't ask for nothing. Go on, put your ear to the ground. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.